Eccoci qua, siamo ritornati finalmente a registrare le nostre puntate e qua con noi abbiamo Matteo che ha voluto appunto fare un saluto con Yes People e poi Luca che oggi c'ha da raccontarci un sacco di cose e siamo pronti ad ascoltarlo. Buonasera a tutti, bella ragazzi, sono Luca e oggi parlerò di quello che farò nel weekend. Domani con un mio amico andrò a un negozio di dolci sulla Tiburtina, che domani ci daremo appuntamento per le ore 15. Prenderemo il 341, l'autobus che passa vicino a casa mia, insomma, e andremo verso la stazione di Fitene. Là faremo direttamente i biglietti in stazione e poi appena passa il treno lo prendiamo. Dopo 12 minuti saremo arrivati direttamente a Tiburtina, che non sono tante fermate perché saranno Fitene, Nuovo Solario, Nomentano e Tiburtina. E là andremo a quel negozietto che prenderemo un po' di dolcetti. Aspetta, quale negozietto? Dove sta? Quanti ce ne sono? Raccontaci un po'. Il negozio si chiama Odi Store. Ovunque dolce salato. Sta stazione Tiburtina, stazione Termini, Viale del Tritone, Piazza di Spagna, Tuscolana e ce ne sono parecchi. Questi qua diciamo che sono quelli un pochino più comuni, ce ne stanno in tutta Italia, insomma. Ok, tu li consigli per gli appassionati di che cosa? Di dolci, salati, provenienti da tutto il mondo. Mia madre ha detto, le cose che sono già nel supermercato non c'è bisogno che lo compri. Io acquisterò cose nuove che non ho ancora assaggiato, tipo la burro birra di Harry Potter, il vaniglia e il caramello. Ok, e che altre idee c'hai che vorresti comprare e soprattutto quanto budget hai? Allora, 40 euro. Ok, e quante cose ti puoi comprare e che ti vuoi comprare? Una marea, diciamo. Ecco, vi dico, hanno fatto una nuova bibita, che è Energy Drink, che si chiama Prime. Che io ho detto, compro fragole e anguria, mia madre ha detto, ma no, fragole e anguria proprio no, non sa di nulla fragole e cocomero. E perciò io mi compro, ecco, blu raspberry, ovvero lampone blu. Poi mi comprerò anche i nuovi cereali di Sere Basta in collaborazione con gli Hammers al gusto cookies and cream and peanut butter, ovvero burro d'arachidi. Poi prenderò alcune Fanta Berry, Fanta Peach. Comprerò qualcosa, ma io ho in mente di comprare la patatina più piccante al mondo, però Damiano mi ha consigliato di no, perché col fatto che la Hot Chip Challenge contiene due peperoncini, ma molto molto piccanti, ovvero il Trigat Moruto Scorpion e il Carolina Reaper, che sono molto piccanti, quella sfida è meglio non farla. Poi, ecco, andrò anche al centro... Più che altro perché poi so dolori il giorno dopo. Poi andrò anche al centro commerciale, prenderò una Donut arachidi e cioccolato al latte, cappuccino, poi andrò da H&M a farmi consigliare qualcosa, che adesso la ragazza di mio fratello Matteo è appena giunta, sono molto contento per lei, perciò ecco, mi farà consigliare qualcosa, vestiti, felpe. E poi la sera andrò con mio padre, mio zio e mia zia, andremo al Kentucky Fried Chicken, ovvero il KFC, che fanno soltanto pollo, che io ne vado matto, ecco. E andremo al centro commerciale Roma Est, perché quello di Roma Tiburtina, insomma. E mio padre ha detto, no, non è carino andare con la stazione, andiamo a Roma Est, al centro commerciale là, che è più bello. E nulla, forse domenica vedrò anche mia cugina Rachele, forse andremo a un pranzetto fuori, ci faremo qualche passeggiata, ma questi giorni ne sto vedendo poco perché ha dei suoi impegni, insomma, e mi Ok, dispiace un quindi ci avrai pochino. un ottimo weekend, cioè Luca ci ha raccontato tutto il suo weekend, ci avrai un super weekend. Esattamente, perciò sarà un weekend speciale. Possiamo dire Damiano chi è, dove l'ha incontrato? Damiano è un ragazzo, un mio amico, insomma, che fa parte anche del Jolly Roger. Oggi non c'è purtroppo, E lo salutiamo tanto. perciò venerdì prossimo giustificazione. Ma qua il Jolly Roger non serve, però però noi possiamo fargli un grande saluto alla radio, un saluto forte a lui e a sperando che ci ascolta. Francesco. E nulla, riparso il mic ad Elena. sbagliato la mia spesa o la mia sposa. Chissà chi. Ci ha raccontato tutto il suo weekend, che è tutto un programma, e soprattutto dobbiamo essere pronti a pensare che, ad esempio, tu ti sei dato l'orario anche del treno, potrebbero esserci imprevisti. Questo l'hai messo in conto? No, allora, diciamo, quando passa un treno non è detto che passi subito. Esatto. Abbiamo parlato l'altro giorno con Luca in pulmino proprio di questo, che può succedere che lui si è già dato l'orario del treno, può succedere che il treno non sarà puntuale come vuole Luca, quindi dovrà aspettare un po' di più. Dobbiamo anche dire che Luca, per fare questa uscita, si è organizzato molto bene. E che hai fatto, Luca, per organizzarti prima di uscire con Damiano, cioè nel senso prima dell'evento? Ci siamo dati un orario, ovvero dalle 15 fino alle 19, anche perché adesso sta cominciando l'inverno, stiamo in autunno, le giornate sono più corte, c'è cioè l'orario legale che bisogna spostare le lancette un'ora indietro, insomma. E insomma, noi ci vedremo fino alle ore 19, ovvero alle 7, e faremo un sacco. Ok, e cosa diciamo che ti sei organizzato? Come hai fatto a organizzarti? Come sapevi, che ne so, i costi dei biglietti o tutte queste cose? Come hai fatto? Allora, chiedendo informazioni a te, che sei molto gentile. Vabbè, a me e poi in generale, nel senso che Luca è stato molto bravo, perché prima di questo incontro con Damiano si è organizzato bene, chiedendo informazioni alle varie persone. Questo lo puoi raccontare se vuoi. Sì, ecco, perché vi dico, sono un appassionato di treni fin quando ero ragazzino, che a casa c'ho il treno Lego City e a me passano molto i treni. E mo infatti prenderò quella a due piani, che ci porta da Fidene, Nuovo Salario, Nomentano e Tiburtina. Saranno soltanto 4 fermate. In totale saremo 12 minuti di treno, non ci metteremo molto. Mica è Roma-Milano, Roma-Firenze, insomma. Esatto, questo era l'esempio che gli abbiamo fatto l'altro giorno parlando, che non è un tratto lungo, quindi quando non esci da Roma, abbiamo detto, questa è un'informazione utile anche per gli altri, il biglietto come viene pagato? Se stai dentro Roma? 1,50 €, mentre se vai verso fuori Roma, verso altre città, sarà quasi il doppio e saranno cavoletti. No, vabbè, dipende da dove vai, dicevamo. Ad esempio, se vai a Ciampino, ti ho detto massimo 2,70 €. Però, ad esempio, già come ti ha detto Ale, se vai a Firenze... A Firenze... 3 €. A volte sì, anche di più. Dipende, diciamo, diciamo che i prezzi variano in base a dove vai e anche il posto dove stai andando. Anche quanto valore c'ha quel posto, giusto? Ok, Luca oggi ci voleva anche raccontare, ne abbiamo parlato prima, dell'evento di venerdì. Che... Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Insomma, e quindi sicuramente poi ci riascolterete sul sito. E Luca ci vorrà un po' raccontare com'è andata, come abbiamo organizzato, come abbiamo fatto a costruire un evento, perché non è stato semplice. Abbiamo scoperto che costruire un evento è molto complesso e faticoso. E ora Luca ci racconta. Allora, venerdì scorso abbiamo fatto un aperitivo con molte cose, ad esempio polpette al tiramisù, frittate che non abbiamo fatto nel laboratorio di cucina mercoledì, ovvero fatto in branca, che vedo anche Matteo e altri un altro utente di nome Rick, e abbiamo fatto frittate, polpette al tiramisù, panini, insomma abbiamo fatto un sacco di roba. Io ho fatto un mini barista, ho servito, ho fatto la birra, ovvero la birra, diciamola così per dire, e ho visto un sacco di persone, Marco Burattini, ho visto Francesco, una persona a cui voglio tanto bene, Damiano, Michi che viene a scuola con me. È venuta a trovare Luca durante la serata un'operatrice che appunto lavora con Luca a scuola, e Luca è stato molto contento. E poi Luca ha raccontato che ha fatto appunto servizio, nel senso che ha servito i vari piatti, e i ragazzi del Branca Leone, quindi questo è un grazie speciale che già appunto gli abbiamo fatto, ma glielo riomaggiamo di nuovo, sono stati Francesco e Luigi del Branca Leone che hanno insegnato a spillare la birra ai nostri ragazzi, e loro sono stati bravissimi, quindi Luca è stato molto contento di questo. E se vuoi appunto raccontare com'è stato e se secondo te sarai in grado di fare il barista. Sì, a me mi ha fatto molto piacere. E a proposito di barista, io comincerei a fare il barista che al bar dove vado io di solito, a Porta di Roma, che si chiama Cioccolati Italiani, ci lavora un amico di mio fratello Matteo, insomma, e appena farò 18 anni, chiederò il curriculum a lui, e vedrei se mi accetta, insomma. E però quando si fa il barista devi essere veloce, devi saper fare i caffè, i cappuccini, servire e fare anche il cassiere, insomma. Non è tanto facile fare i lavori nella vita, nel cameriere, nelle pulizie. Devi essere sempre sincero del lavoro che tu vuoi fare. Sì, perché spesso parliamo con Luca di questo, dato che appunto abbiamo il laboratorio di cucina. Nel laboratorio di cucina Luca spesso si lamenta che sta faticando, e noi parlando gli abbiamo appunto riportato a Luca che quando uno lavora deve faticare, e quindi per ottenere le cose bisogna faticare. Ora lo stiamo imparando, eppure Luca ci ha dimostrato venerdì, è stato fenomenale a servire e soprattutto anche a spillare le birre, perché al primo colpo la birra è andata bene come quella di Matteo, e quindi insomma si sono divertiti molto e abbiamo intenzione di mandare avanti queste grandi capacità dei nostri ragazzi. Sì, ecco, mi sono divertito. Poi, anzi, un piccolo spoiler, che questo il 27 dicembre, 2 giorni dopo Natale, 3 giorni dopo la vigilia di Natale, Vorremmo organizzare una mini festicciola per fare il Natale con tutte le persone. E basta, perché se è uno spoiler non dobbiamo spoilerare. No, non dobbiamo spoilerare. Mettiamo la pulce nell'orecchio, ma stiamo in silenzio, basta spoiler. Comunque se magna, su quello è certo. poi piano piano daremo tutte le info dove? Sui nostri? Sui nostri social, Facebook e Instagram. Rimanete sempre aggiornati. A fra poco, quindi adesso, perché dato che appunto stiamo registrando, lo mandiamo subito adesso e non mandiamo subito la musica, poi ce la metterà il nostro grandissimo speaker Pietruzzo, che saluto tanto, gli mando un grosso bacione, che gli faccio questa vocina per renderlo un po' felice. Senza vocina, okay. Ciao Pietro, ti mando un grosso bacione. Ok, e Luca ci aggiornerà con le nostre offerte e avremo il nostro momento speciale delle battute. Vai Luca. Offerta il castoro. Dal 15 novembre al 23 novembre. Pomi passata a 79 centesimi, 39% di sconto. Coccolino ammorbidente a 3,79 centesimi, 24% di sconto. Birra Cnusa a 41% di sconto a 99 centesimi. Due supermercati Castoro. Castoro, appartenenti al supermercato Grosso, un gruppo romano di supermercati più vicino a noi, quartiere Fidene con l'Esalario e Concadoro. Ok, grazie Luca. E adesso donaci di un po' di risate. Se tolgo le batterie ad un telecomando, lo depilo? Qual è la differenza tra una macchina e una moto? La macchina non può essere messa in moto, La moto non può essere messa in macchina. Cosa si fa una patatina in chiesa? Prega San Carlo. Dove si allenava Gesù? In Palestrina. Grande Luca, grazie infinite. Rieccoci. Con il nostro grande Matteo. Matteo, io vorrei raccontare. Un saluto alla radio la puoi fare, pure Sì, a chi vuoi, se vuoi salutare qualcuno. a Pietro. Da Pietro, come stai? E poi ai miei compagni. Ok, grazie Matte. Oggi che ci vuoi raccontare? Io vorrei raccontare in meglio e anche le partite. Ok, quindi di che ci vuoi parlare prima? Prima e medio. Ok, vai Matte. Tappa 25 novembre, pioggia. 2023 novembre, nuvolo. Partite. Sabato 25 novembre, gioca la Napoli. Il pronostico non ce lo fai oggi. Ripeto. Beh, Vai. allora Napoli, Pite Napoli, poi Miodina, Pite Miodina, Cadi Moda, Pite Caderi, poi Empoli da Sole, Pite Lepoli, Brunitema, Pite Brunitone, Venduito e Pite la Juve. Ok, grazie mille Matteo. Harmony. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No estás mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú Carmelo y tú mí. Cuando yo bajo siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la hago. Yo tú Carmelo. Adesso ci vuoi raccontare qualcos'altro? Sì. E che cosa ci vuoi raccontare? Benedetto, il Evangelio relativo. Due famiglie vengono a... Però lo spoiler non ce lo devi fa tutto. Allora, Matteo ci sta raccontando che il 27 vorremmo fare l'aperitivo, giusto? Però, prima di fare l'aperitivo... Noi che cosa abbiamo fatto venerdì, Matte, che tu ci hai raccontato tanto? Venerdì fatto l'arrivo, ho fatto tiramisù, poi... Le tiramisù che erano buone? Sì! Molto buone, devo dire che erano eccezionali, anche perché dentro che ci avete messo? E che stava dentro, che era tutto cioccolatoso? Il? Ecco, il... Dato, cacao. Il cacao, ok, quindi ci abbiamo messo cacao, poi cappottone. O il mascarpone, bravissimo, poi E le uova, no. No, le uova alla fine non ci abbiamo più messe perché Ricky ha detto di non metterci. Però ci abbiamo messo poi i savoiardi. I miatti e... E in mezzo, Ci hanno messo la sorpresa, c'era il Kinder al cioccolato, il Kinder era buonissimo. Buonissimo. E poi ho fatto anche i paninetti con frutto cotto e formaggio. Grande, Matteo, questi paninetti che alla fine tu li hai assaggiati? Sì, uno sì. E com'era? Buoni. Uno no, io Matteo no, la frittata di patate, no. Ah, Matteo, perché abbiamo fatto anche la frittata di patate, dillo, frittata di patate tipo... Tipo? Porri. Grande, un odore di porro, madonna. Oh! Nella cucina. E Matteo non l'ha assaggiata? Non l'hai proprio assaggiata a zero quella di patate? No. Ok, vabbè, quindi abbiamo fatto quella di patate, quella di porri, poi che altro abbiamo fatto? Il tiramisù? Le cose, la valigia e fatto anche le vinette. Anche le birrette, perché Matteo venerdì sera come diciamo prima con Luca, insieme a Francesco e Luigi si è messo a servire che cosa? Le birre! Le birre. Matteo nemmeno l'ha mai assaggiata la birra, quindi ci faceva bere a noi e lui non se ne è bevuta manco una. No, perché io giorno con papà Massimo io bevo una birra. Allora, Matteo ci ha detto l'altro giorno che andranno, dove andrete? Che papà Massi ti ha detto, andiamo a? A Praga. A Praga, e papà Massi giustamente gli ha detto, te devi bevere la birra. Sì. Quindi ci dovrà mandare la foto, stiamo tutti aspettando la foto di Matte che beve la birra. Sì. Senti una cosa, ma perché tu non ti bevi la birra? Che cos'è che non ti piace? Perché la Coca-Cola, no, la ciata e la pasta. Ok. E che c'hanno che non ti piace dentro? La Coca-Cola, l'acciata, la birra? L'amara. Dice amara perché c'hanno le? Folle. A Matteo non gli piacciono le cose gassate, quindi a lui la birra non gli piace, però è un tutto un altro sapore, gli abbiamo spiegato, quindi prima o poi Matteo l'assaggerà. Sì. Ha detto a Praga. Sì. Ok, senti una cosa, ma nell'evento quindi tu hai servito le birre, come è stato servire alle altre persone e fare le birre? Molto bello. E io ho fatto con Luca e Triccando. Ho fatto le birre, ma bellissimo, bello. Ok, Matteo gli è piaciuto tanto, si sono messi là dietro a fare le birre come diceva lui, con Matteo e con Riccardo, che poi sono i ragazzi che partecipano al laboratorio di cucina del mercoledì. E grazie a Brancaleone, grazie ai ragazzi che si sono anche resi disponibili con tutta la semplicità del mondo di insegnarci a fare le birre, che è stata un'esperienza molto bella, perché poi Matteo a un certo punto della serata ha iniziato a chiedere chi voleva la birra, quindi offriva birre in giro quando così ha iniziato a offrire birre Matteo. Poi diceva, facciamo tutti 2 euro! Io ho dato 2 euro perché io... Ad esempio, con mamma e Tarare, ho venuto a Praccaione, mamma ha messo il succo a Mizzillo, io ho pagato 2 euro, e Tarare prendo un succo a Zipacca, 2 euro. Matteo sta dicendo che è venuta la mamma con un'altra amica e... Tarare! E praticamente niente, insomma, Maresa ha preso il succo, insomma, a Mirtillo si ricorda tutto. Matteo si è segnato tutto durante la serata. Ok Matte, fai un grande saluto alla radio. Ciao a tutti, ciao. Dove ci devono seguire le persone? Sui? Podcast. Bravo Matteo, dovete ascoltare i podcast sul nostro sito di Pirate Radio. Bravissimo Matteo. E soprattutto dovete seguirci sui nostri social, Facebook e Instagram. Grazie a tutti. Tanti a tutti. Yeah. Oh. Yeah. Se sapessi il male che mi fai. Che mi fai. Mi hai lasciato solo in un king size. Io che ti leggevo al buio come il Braille. Preferivo non leggere mai. Ti ho portato a letto come i nightmares. Sono fuori che ti aspetto. Vero in macchina c'è freddo. E ti porto in un posto speciale, anche se non è perfetto. Appannati come freezer, come finestrini quando fuori è winter. E parliamo così tanto che le frasi fatte diventano scritte. E stupido che non ti ho detto subito i difetti. Volevo almeno il dessert, almeno i limoncelli. E mi son buttato un po' come il pogo. Era il tuo gioco, io John e tu Yoko. Cercami in una tempesta, non ti devi riparare. Se mi spareranno in testa, tieni pure la SIAE. Wow, se sapessi il male che mi fai. Che mi fai. Mi hai lasciato solo in un king size. Leggevo al buio come il Braille. Preferivo non leggere mai. Ti ho portato a letto come i nightmares. durante i funerali, quelli tibetani dove gli avvoltoi portano via tutto quello che rimane, un po' come è finita fra di noi. Restano solo canzoni che cancellerei col senno di poi. Penso ancora a lei quando pago l'analista con i soldi dell'eroe. Ma tu rolli a bandiera lo stress, perché a dire addio sei più brava di me. Tu usce, tutti i miei incubi chiedono di te. E non ti ho chiamato, prendeva poco. Mi hai detto bravo, ho risposto col fuoco. È passata la tempesta, ho smesso di stare male. Andiamo alla stessa festa, sotto casse separate. Wow, se sapessi il male che mi fai. Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi hai. Mi hai lasciato solo in un king size. Partenza falsa, c'era l'impegno, ma non abbastanza. Ci ho messo il cuore, la testa e le braccia. Non si vince mai quando perdi la faccia. Wow, stupido che non ti ho detto subito i difetti. Gli incubi erano solo segreti non detti. Se sapessi il male che mi fa. Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi. Lasciato solo in un king size. Io che ti leggevo al buio come il braille. Preferivo non leggere mai. Ti ho portato a letto come i nightmares. Nightmares. Ciao a tutti, io sono Alice e oggi parlerò delle mutande. Allora, aspetta, ciao a tutti, qua abbiamo la 18 nostra che oggi ci vuole fare un discorso importante. Vuole parlare in generale di un discorso appunto sulle mestruazioni di tutte le donne, che non ci vergogniamo di parlarne. E Alice vuole dare un consiglio importante a tutte quante le ragazze, le donne che comunque appunto incorrono in questo problema che tanto abbiamo tutte quante, no? E Alice ha un po' di idee da darvi, quindi oggi vi descriverà la sua idea e una cosa tra l'altro che lei ha provato e appunto vuole dare consigli alla radio. Vai Ali! Queste, allora, le nuove mutande che assorbenti sono delle che insomma sono nuove. Oggi vi vorrei parlare di una scoperta che ho fatto in questi giorni. E cioè le mutande assorbenti per il ciclo. Ok, e che cosa, cioè che possiamo dire di queste mutande? Quanto, cioè, ok, sono mutande per il ciclo, ma che c'hanno di particolare? Scusa, ti sporchi? No. Ok, e perché? Perché hanno 4 strati. Ammazza, quindi sono super comode. Ok, e vedi un po'. Sì, per comodità, che per ridurre l'inquinamento, gli assorbenti sono un ottimo alleato e si può vivere il ciclo senza problemi perché assorbono molto. Ok, quindi diciamo che tu ci stai dando un consiglio perché sono comode, no? Perché assorbono, tu hai detto sono 4 strati, e come funzionali? Aspetta, che assorbono molto e... Come funziona? Tu hai detto, sono 4 strati. E come funzionano sti 4 strati? Cioè, qual è che... Cioè, quello... L'ultimo si sporca? Allora, l'ultimo... Quello sotto si sporca sempre. No, allora, il primo... Quindi vicino al contatto con la pelle... È il primo che si sporca, no? Sì. E poi può capitare, come dicevo... Uno dei problemi che si pongono tante donne, no? Dice, oddio, mi sporco il pantalone, che vergogna. Con questa mutandina succede... Mai. Ok, quindi l'hai provato? Sì. E raccontaci un po' com'è, cioè dici allora, un po' la tua esperienza senza scendere in particolari troppo allora, intimi. Questa mutanda è molto comoda. In particolare a cotone che non bagna i pantaloni e non c'ha quindi non c'ha la il come dire Lo sporcamento, Non succede, diciamo, che si sporca il pantalone perché non penetra gli strati, perché sono non quattro, penetra no? le strade perché Me l'hai spiegato prima. non succede mai questa cosa di Quindi come gli puoi stare altri sereno, no? Cioè, se ti metti. hanno perdite di ciclo come gli altri che magari non c'hanno come queste mutande che ho io. Ok, quindi Alice dice che sono molto efficaci. In più, una cosa che Alice diceva, no? È il fatto che è una cosa ecologica, perché non butti più gli assorbenti. Ma quella là, Esatto. che cosa c'ha quella là in particolare? Tu che cosa puoi fare con quella mutanda? Cioè, gli assorbenti li puoi lavare? Eh beh, No, certo. aspetta, gli assorbenti quelli là che compri al supermercato li puoi rilavare? Ah no, quelli no. E invece questa mutanda che c'ha di importante, insomma, che Qui è anche c'hanno per il degli pianeta. assorbenti. C'hanno come degli assorbenti, però hanno delle. Di che materiale è fatto, Ali? Però del materiale c'hanno un cotone fatto che è un materiale che è cotone, però sono quattro, sempre quattro strati, Ok. ma serve per lavarlo perché serve per lavarlo sia a mano o nel catino. Ok, quindi lavatrice. Ok. E alla lavatrice ti ricordi in quanti gradi la dobbiamo mettere? 30 gradi. Ok, 30. Ah, quindi pure con acqua fredda, nel senso che si può pure risciacquare, vedi, è comodo. Senti, ma una domanda, è morbido? Tanto. Come tipo, per esempio? Come una costata di un magari che serve magari come ci metti magari una Tu prima hai fatto una similitudine, hai detto, oh, è molto morbido, come? la costata per seta, Come la seta, hai come detto la prima, seta. però poi dopo prima ci hai spiegato, no? Che prima abbiamo spiegato che sono due materiali diversi, quindi una cosa è il cotone, una cosa è la seta. È come più o meno anche una custodia come c'è perché visto la custodia a volte le custodie delle computer hanno delle cose come Lisce, morbide, lisce tipo. morbide, Ok, no, ho esatto. capito, è vero, è un materiale che sembra simile, è vero, non c'hai torto, perché quello è cotone, tra l'altro è un cotone che si lava. Allora, cioè, ci sono davvero delle custodie un po' tipo, no, pelosette, però morbide quando le tocchi, lisce, Lisce no? morbide e a volte si hanno anche il cotone. Sì, quello non lo so, nel senso non lo so per certo che sia Però fatto di bisogna cotone. vederlo. Bisogna vedere. Quello possiamo controllare, se la custodia è fatta plastica e cotone. Però non te lo so di per certo. Quindi questo è un ottimo consiglio. Quindi tu hai detto che ti ci sei trovata benissimo. E che altri consigli vuoi dare se in qualche. Si muove, non cerca ragione. La mente si illude. Cambia le cose, settembre, e sono più dolci le onde, la luce riflessa sul mare, settembre ti cambia l'umore, e sento ancora addosso le tue mani, e sento ancora addosso le tue mani. Stand. te cosa mi rimane, perché sono ancora nostre le nostre promesse mai rese. Sento ancora addosso le tue mani, ah, ah. Ti vedo mentre guidi a fari spenti, ah, ah. Vite fragili come origami, ah, ah. Ed era tutto lì in quei pochi istanti, il mistero di cercarsi. Un beat che rimbalza, il sex appeal si mastica. Roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica. Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. Notte densa, manto di stelle, la tua mente criptica. La mia gamba dondola, la mia gamba dondola. Insomma, le donne o in generale, se altre cose da dire. Sono facili da indossare come le classiche mutande, e il materiale è cotone, e ci sono vari strati che cambiano in base che cambiano in base al grado di assorbenza, e hanno una tecnologia antiodore, cioè che hanno una... Cioè evitano di sentire cattivi odori, diciamo. Sì, esatto, evitano il cattivo odore dalla mutanda assorbenza. Certo, perché poi non è una cosa carina, insomma, sta in giro con la gente, cioè... Cioè, è brutto. Eh beh, sì, è una cosa, insomma, un po' che non è gradevole, quindi è giusto... Anzi, è una sicurezza... certo, la sicurezza sape che invece di emanare cattivo odore c'ha delle sostanze dentro i panni che non rilasciano cattivi odori. Sì, giusto. Perché noi al Jolly Roger parliamo di tutto. Parliamo di tutto, ma di cose utili. Ma di cose utili, ma non di cose troppo personali. Eh sì, perché poi non si può scendere in particolari. Abbiamo detto Calice che possiamo fare un discorso generico per aiutare le persone che ci ascoltano, magari qualche donna che è curiosa di sentire questo, ma poi anche qualche uomo che può dare consigli alla propria donna, no? Alla fidanzata, giusto? Certo. Ok, vai Ali, altro da dire? Si possono tenere addosso per il massimo 12 ore. Insomma, vanno messe... Poi comunque vanno messe... Prima vanno messe... Prima che vanno levate, sì, vanno messe... Prima vanno messe... Allora, prima te le metti... Esatto. Ok. Una volta che te le sei messe, che devi fare? Prima vanno messe. Ok. Poi ti tengono un pochino per 12 ore. E poi vanno levate. Vabbè, allora, puoi anche dartene una lavata o comunque, che ne so, nel senso quello lo puoi fare. Uno va a fare pipì, che ne so, se dà una lavata. Poi Alice dice che la durata è di 12 ore. Cioè 12 ore lo... tiene. Poi ti conviene magari prenderne due, possiamo dare un consiglio, e te lo cambi prima di 12 ore, per sì, esempio. Infatti io prima mi lavo e poi mi metto le mutande. Certo, perché uno comunque poi l'igiene è la prima cosa, perché poi Alice... Quando arrivo a casa perché c'ho... Vabbè, quella è la cosa tua personale e che non diciamo. Ok Ali, altro da dire c'hai? Guarda, c'ho... C'è qualcosa che ne so sull'attacco da raccogliere? Ah, ok, no, scusa, vai, sotto difficile. L'acqua fredda, e infine si mettono in lavatrice a 100 gradi, in più per garantire a tutti una maggiore comodità. Queste mutande e assorbenti si possono trovare in vari modelli, a vita bassa, a vita alta, oppure a vita media. Perché magari si possono trovare o alla lavabra, oppure si possono trovare alla lavabra, magari su internet, magari si possono trovare anche lì. Certo, quelle sicuramente le possono trovare lì. Ok Ali, quindi ecco, ho anche una notizia da dirvi. Ok, per chiudere il discorso, quindi sono mutandine anche che si possono lavare. Sì, e sono molto comodi. Alice ce le consiglia e chiudiamo qua il discorso. Io glielo consiglio anche a Elena, perché Elena la conosco da tanto tempo. E certo, quella è una cosa di confidenza che ci diciamo noi. Certo. Grazie mille, Ali. Adesso Alice aveva dei racconti su una notizia che poi a me interessa sempre. Come no. Perché io giro coi mezzi e quindi... Quelle giusti, come me. Esatto. Sì. E quindi grande. Di che ci vuoi parlare? Allora... La notizia ATAC, a causa dei debiti accumulati negli anni, ATAC probabilmente si ritroverà a dover aumentare il costo da 2 euro che sono dei biglietti e abbonamenti della corsa singola costerà 2 euro. Che infatti l'ho detto, mentre si discute sui biglietti e sugli aumenti, anche sui biglietti si discute, no? Certo, Alice ci sta dicendo che da 1,50 euro andremo a pagare il biglietto a 2 euro. E si discute sempre, dice, ma perché si deve discutere sempre su questa cosa? E alla fine noi paghiamo sempre. Alla fine noi paghiamo sempre e non va bene. Giusto? Quindi giustamente Alice ha riportato che adesso non va bene pagare. A causa di debiti che sono stati accumulati nel tempo dall'ATAC, oggi probabilmente noi andremo a pagare un po' di più il biglietto. E Alice, su questo sono cose che sull'ATAC, sull'andamento diciamo dei servizi dei nostri enti territoriali, Alice spesso si arrabbia e c'ha tutte le ragioni del mondo, quindi noi spesso diciamo in radio, raccontalo perché è giusto. Vivendo la città e andando in giro, Alice si informa. Infatti le informa anche a Elena perché va in giro con i mezzi, come l'ha detto anche a me. Certo. Anche da diversi fusi orari, ieri siamo stati esagerati, chiediamoci scusa nella stanza buia, scenari surreali, baci come bombe nucleari, stiamo in equilibrio sui binari, sono qui ti affacci, ho i minuti contati, iniziamo dalla fine, toglimi le spine, mi chiedi come stai, non te lo so dire, stasera spegni tutto per essere felice, che non è mica pioggia, sono solo due goccine, là fuori c'è un casino e chi ci trovo sei tu, che poi sappiamo farci di tutto di più, che malinconia. Finisce il mondo se vai via. Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri. Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri. Perché mi annoia tutto ma non tu. Quindi che non succeda più, che stiamo zitti a pranzo. Io da domani non piango, ti giuro no. Certe sere, mischiato il sangue con il miele, ballato scalza tra le iene, per poi buttarmi giù, però dove eri tu? Sai, dopo la malinconia, inizia il mondo se vai via. Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri, ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri, perché mi annoia tutto. Che non succeda più, che stiamo zitti a pranzo. Io da domani non piango, ti giuro no. Ci siamo fatti benissimo, poteva essere meglio. Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento. Cose che ci ha fatto l'amore, cose che ci ha fatto l'amore. Da domani non piango, che non ti meriti. Poteva essere meglio. Adesso parliamo due lingue diverse davanti a un albergo.